Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. Lentamente, con la stessa espressione impassibile, il cowboy fece entrare l'animale nell'acqua, che presto gli arrivò fino al pettorale. Era una giumenta possente, enorme, molto più forte di quelle che di solito si montano nel West, eppure sembrava che le zampe non avessero presa. E il corpo era tutto di traverso, quasi fuori asse per effetto della corrente. Nel punto più profondo, gli stivali dell'uomo erano completamente spariti nell'acqua e tutti trattennero il respiro finché, uscendo forse da una buca, la giumenta parve liberarsi, sollevò in alto le zampe, riemerse fino ai ginocchi e finalmente, con poche falcate precipitose, guadagnò la sponda opposta. È un peccato che il suo amico non sia venuto a vedere. PM guardò la signora Noland con i suoi occhi gonfi e lei scoppiò a ridere. PM, non mi sembra del tutto sveglio. Che cosa fa il suo amico nella vita? C'è una sorta di tristezza in lui che mi ha molto colpito. Una sorta di tristezza. Era strano che lo dicesse. È proprio riferito a Donald. Qualcun altro aveva usato le stesse parole, o quasi, molti anni prima. Gli sembrava di sentire ancora la voce, una voce di donna, anche in quel caso. Stava facendo uno sforzo di memoria. Non mi ha risposto. Le ho chiesto che cosa fa nella vita. Credo che sia un uomo d'affari. Mi stupirebbe. A proposito, dica a Nora di non prendersi il disturbo di cucinare. Jenkins ha appena messo sul fuoco un arrosto da 20 libbre. Jenkins era il suo negro. Insomma, dopo un breve intervallo, la festa sarebbe ricominciata. La signora Noland diede la notizia anche agli altri. Venite a mangiare da noi più tardi. Abbiamo un arrosto gigantesco e dovete darci una mano a finirlo. PM rispose. Probabilmente Nora verrà. Anche lei è suo amico, spero. Temo sia troppo stanco, si sta rimettendo da una grave malattia. Se non lo porta lei, vengo a prenderlo io. Senta, Lil, vuole tenerselo tutto per sé? No, ma è meglio che mi dia ascolto. Se le dico che è stato molto malato, deve credermi. Abbassò la voce e sussurrò. È stato lì lì per impazzire. Gli hanno tassativamente proibito di bere. Pazienza, non berrà. Aspetti, forse non mi sono spiegato. Il fatto è che potrebbe venirgli voglia di bere, soprattutto se vede gli altri bere, e la minima goccia di alcol per lui sarebbe un veleno. Addirittura. Senta un po', PM, mi sta dicendo tutta la verità? Siamo sicuri? Perché non dovrei. Lei ha detto che ha rischiato di impazzire. Ha solo rischiato o c'è stato invece un momento in cui... Lilla, ci ho preso, Lei è capace di tenere un segreto, vero? Si chiese se stesse facendo bene o male. Lo porti, le prometto di non commettere imprudenze. Anche quell'altra, parlando della tristezza di Donald, aveva un'aria pensierosa. Ora si ricordava. Di punto in bianco gli si era riaffacciato un viso alla memoria ed era strano rievocare un ricordo così antico lì, davanti all'acqua gialla del fiume, ai piedi delle montagne su cui si stavano riaddensando le nuvole. Guardate, diceva qualcuno, in Messico piove di nuovo. In effetti, si scorgeva all'orizzonte una colonna più grigia e dai contorni sfumati che andava dal cielo alla terra. Ve l'avevo detto che ne avremmo avuto per più di una settimana. Qualcuno aveva già riacceso il motore. L'uno dopo l'altro, tutti tornavano a casa per mangiare qualcosa e farsi un bagno prima di ricominciare. «Vi aspetto da me», si raccomandava Lil Noland. «Niente bridge, però». Gli uomini della valle, infatti, ad eccezione di un paio, non amavano affatto il bridge. «Potete farvi una partita a poker, se vi va». Lil Noland era bruna, con la carnagione da messicana. Quell'altra, che tanti anni prima aveva parlato della tristezza di Donald, aveva invece i capelli così biondi che parevano bianchi. Era bionda e snella, con un viso allungato e già serio, nonostante i 16 anni scarsi. «È una mammina!» La definivano così nel paese in cui il vecchio Ashbridge aveva un emporio dove vendeva di tutto, dai generi alimentari agli utensili, dalle sementi al concime, al whisky e agli indumenti. Ad Appleton, lassù, nell'Iowa, c'era una sola strada e la casa del vecchio Ashbridge si trovava giusto a metà di quella strada. Ne era il cuore e l'anima. Era una modesta costruzione di legno a un solo piano, con davanti un portico sotto il quale oziava perennemente un gruppetto di sfaccendati che bevevano birra e masticavano tabacco sulle loro rocking chairs. I genitori della mammina abitavano nell'ultima casa in fondo alla strada, una sorta di catapecchia fatta di vecchie assi, lamiera ondulata, materiali vari raccolti in ogni dove, e c'era un sacco di bambini là dentro, 8 o 9, con una madre invalida che non si alzava più dalla sua sedia a dondolo e un padre quasi sempre ubriaco. Erano i Dodson e la ragazza si chiamava Mildred. Se ne andava in giro per lo più a piedi nudi, con indosso un vestito di cotone colorato troppo grande per quel corpo magro. Eppure per qualche settimana era stata la girlfriend di PM. Lui all'epoca avrà avuto 16 anni. Era tutt'altro che precoce. Di fronte alle ragazze provava ancora soggezione. Insomma, Mildred era stata la prima che aveva portato al cinema, a Fairfield, la città vicina. Mildred non rideva mai. Donald, a 14 anni, era alto come fratello e sembrava suo coetaneo. «Che aria triste a tuo fratello!» Ora ricordava. Fino a quel momento nessun altro aveva notato in Donald un'aria particolarmente triste, almeno per quanto ne sapeva lui. Per frequentare le superiori era tornato a Fairfield. Poi, a 17 anni, se n'era andato sul serio, senza più pensare a Mildred, che aveva baciato sì e no un paio di volte, approfittando del buio. Molti anni dopo, suo fratello gli aveva scritto per annunciargli che si sposava, e proprio con quella Mildred. Che cosa strana. Da allora erano passati più di 20 anni. Le acque del Santa Cruz si erano gonfiate tantissime volte e adesso Donald era lì da lui, nella camera degli ospiti. E Mildred lo aspettava a Nogales, dall'altra parte della frontiera, insieme ai figli. PM non l'aveva mai più rivista. Non aveva mai visto i bambini, 2 maschi e una femmina, e non sapeva neppure quanti anni avessero. La cosa sorprendente era il tono di voce con cui la signora Noland aveva parlato di Donald. Dopotutto, lo aveva appena intravisto. E quello che anche lei aveva notato subito era la sua tristezza. Sembrava pensierosa, eppure Lil Noland non passava per essere il tipo di donna che si interessa agli uomini. Suo marito non aveva niente di speciale. Era un bravo uomo, ma non era affatto al suo livello. Avevano una figlia che ora doveva essere in vacanza al mare da qualche parte in California e che d'inverno andava a scuola a Tucson. «Vorrà occuparsi di lui», pensò PM. Non era geloso. Come avrebbe potuto essere geloso del fratello? Non lo era stato neppure quando aveva saputo che avrebbe sposato Mildred. Aveva rimesso in moto la macchina. Le donne più intelligenti, e Lil Noland era fra queste, hanno uno strano modo di giudicare gli uomini. Perché, per esempio, pur non sapendo niente di Donald, si era mostrata tanto incredula quando PM le aveva detto che era un uomo d'affari? Non solo Donald non era un uomo d'affari, ma era addirittura un fallito. Non c'era altro termine per definirlo. Era un fallito in tutto. PM, invece, si era fatto strada grazie alla sua ambizione e niente era riuscito a fermarlo. Lasciò la macchina fuori, come sempre. Si accertò che sul prato i cavalli ci fossero tutti. Aprì la porta e immediatamente aggrottò la fronte. Dalla cucina proveniva un buon odore di caffè e di bacon, insieme a un fitto parlottio. Nel tempo che ci misero ad accorgersi della sua presenza, gli arrivarono giusto un paio di frasi che non riuscì ad afferrare. Eppure, per qualche strano motivo, ebbe la netta impressione che quelli che stavano parlando con tanta familiarità fossero diventati amici e stessero chiacchierando allegramente. Nora si era alzata. Non capitava spesso che, dopo aver fatto le ore piccole, si alzasse prima di pranzo e a volte restava a letto per l'intera giornata. Era così pigra, di una pigrizia tutta sua, che avrebbe fatto a meno persino di mangiare pur di non accendere il fornello elettrico e cuocersi due uova. E adesso invece era in piedi. Forse l'aveva svegliata lui quando aveva acceso il motore e a quel punto lei aveva trovato la forza di scendere dal letto. O magari era stato Donald alzandosi. «Il fiume?» chiese Nora. «Non si passa, vero? Ho appena telefonato agli Smiley e mi hanno detto che...» Vide che PM era di pessimo umore. Lui avrebbe voluto nasconderlo, ma non ce la faceva. Donald era lì, in cucina, con indosso i pantaloni del giorno prima, ormai asciutti. E una camicia pulita, una camicia di PM, fresca e inamidata, che doveva avergli dato Nora. Ai piedi aveva le pantofole del fratello e in quel momento stava controllando la cottura dei toast. La tavola era apparecchiata per tre. I bicchieri in soggiorno erano stati raccolti e impilati nel lavello. «A quanto pare Raoul è riuscito a passare col cavallo», disse ancora Nora. Lì nella valle non c'era nessun bisogno di uscire di casa per essere informati su ogni minima cosa. Ci si telefonava di continuo da un'abitazione all'altra, da un ranch all'altro. Pemberton, per esempio, aveva il brutto vizio di fare lunghe visite agli uni e agli altri, perdendo completamente la nozione del tempo e dimenticandosi perfino delle ore dei pasti. Perciò, quasi ogni sera, verso le 6, si sentiva la voce della signora Pemberton all'altro capo del telefono. «Pronto? Edward è per caso lì da voi? Era qui un quarto d'ora fa. Ah, allora si sarà fermato dai Cady». Al che la signora Pemberton chiamava i Cady, poi gli Smiley, seguendo le tracce del marito. «Che cos'hai?» chiese Nora. «Io? Niente». Non valeva la pena mentirle. Nora era forse ancora più intelligente della signora Noland, anche se non avevano esattamente lo stesso tipo di intelligenza. Il padre di Lil Noland possedeva 3 ranch in Messico, delle quote di capitale nelle miniere di Douglas e non pochi interessi in diversi affari in Europa. Sin da piccolissima Lil aveva girato il mondo. Aveva studiato a Parigi e in Svizzera. Parlava francese, spagnolo e un po' di italiano. Essendo figlia unica, aveva ereditato tutto il patrimonio del padre, ma viveva con la stessa semplicità di qualunque altra donna della valle. Anzi, la sua era probabilmente la casa più disordinata di tutte. Anche Nora era ricca, un po' meno, ma pur sempre ricca, grazie al suo primo marito, Chester McMillian, che le aveva lasciato il ranch e delle azioni in varie aziende di Tucson e Nogales. La differenza tra le due stava forse nel fatto che Nora sapeva di essere intelligente, di avere gusto, di essere colta, mentre la piccola Noland neppure ci badava. La stessa lieve sfumatura si avvertiva nel modo in cui ciascuna delle due trattava il marito. Era un pensiero sgradevole che PM preferiva accantonare, ma in realtà la situazione dei due uomini era pressoché identica. Né l'uno né l'altro disponevano di molti soldi prima di sposarsi. Larry Noland aveva un po' del toro e un po' della pecora. Del toro per via della sua mole e per la brutalità di cui dava prova se gli capitava di perdere le staffe. Della pecora per l'umiltà che dimostrava nella vita di tutti i giorni, in particolare quando era con Lil. Di sicuro non era all'altezza di PM. Al di fuori dei cavalli e del bestiame non aveva alcun interesse e la moglie era riuscita a stento a insegnargli a giocare a bridge, cosa che peraltro lui faceva malissimo. Eppure Lil, in pubblico, in ogni circostanza, era la moglie più remissiva e innamorata del mondo. Non si permetteva mai di contraddire il marito. E se a lui veniva in mente di bere, come accadeva piuttosto spesso, lo guardava con indulgenza, senza mai azzardarsi a togliergli di mano il bicchiere. Nora, invece, nei riguardi di PM, si comportava sempre come una sua pari. Almeno così preferiva pensare lui. In fondo... Ammettilo, sei preoccupato. A tavola, le uova sono pronte. Lei capiva tutto, sempre, e lo lasciava intuire dal proprio atteggiamento. Il modo in cui guardò Donald mentre portava le fette di pane tostato era quanto mai eloquente. Significava: lo so che sei furioso perché mi sono alzata e pensi che lo abbia fatto per via del tuo amico, e con ciò ho tutto il diritto di essere curiosa. A voce alta disse: Eric è l'uomo più gentile del mondo ed è bravissimo a fare le pulizie. Per un istante PM rimase interdetto, sentendo quel nome, perché non si ricordava di averlo dato proprio lui al fratello la sera prima. Abbiamo chiacchierato un po' mentre preparavamo la colazione. Lo stava facendo apposta. Intuiva che c'era qualcosa che non andava, che per qualche motivo PM non era del suo solito umore. Forse aveva fatto apposta anche a presentarsi mezza nuda. Nora non era l'unica nella valle a vestirsi in maniera così succinta, ma in lei si percepiva sempre una punta di ostentazione. In qualunque periodo dell'anno, quando era al ranch e a meno che non montasse a cavallo, indossava un paio di pantaloncini che somigliavano piuttosto a un cache sex e una specie di reggipetto da cui poteva capitare che le sgusciasse fuori un seno. I piedi, sempre nudi, infilati in un paio di sandali, avevano le unghie degli alluci laccate di rosso. È vero però che aveva un corpo da ragazzo, con i fianchi strettissimi, e che era più piatta di una bambina appena nata. Eric mi diceva che dubita fortemente che i suoi amici possano venire a prenderlo. Ogni volta che sentiva quel nome, PM aggrottava la fronte. Temeva di tradirsi, non aveva idea di cosa potesse aver raccontato il fratello. Non mi avevi mai parlato di lui. Mica potevo parlarti di tutti i miei compagni di scuola e dell'università. Non è molto carino nei suoi confronti. Tanto lo sa che è un pessimo carattere. La cosa più sconcertante era che Donald ascoltava tutti quei discorsi come se non lo riguardassero minimamente. Lil lo trovava triste? No, non era affatto triste. Era indifferente e lo era in modo odioso. Se ne stava lì, con aria imperturbabile, a mangiare le sue uova al bacon come se niente fosse, tranquillo come se si trovasse a casa sua con Mildred e i bambini. Guardava nel vuoto, guardava, oltre la finestra, la pioggia che ricominciava a cadere. Chi dei due, in fin dei conti, stava rischiando di più? Era questo che mandava in bestia PM. Sì, certo, c'era la possibilità che Donald venisse arrestato. E allora? Era evaso dal carcere, no? Dove, a rigor di logica, sarebbe dovuto rimanere ancora per parecchi anni. E del resto era lui che se l'era meritata, la galera, non PM. Ma Nora non poteva saperlo. Il rischio maggiore lo correva PM. Lui non aveva mai ucciso nessuno. Aveva avuto lo stesso padre, la stessa madre, la stessa casa di legno ad Appleton. A entrambi erano state offerte le stesse possibilità. Chissà se Donald, con quella sua aria trasognata, la sua famosa aria triste, avrebbe avuto il coraggio di affermare il contrario. La prova migliore del fatto che in partenza avevano avuto le stesse carte da giocare era che la sorella Emily, più giovane di loro di 4 o 5 anni, non si ricordava più con esattezza la sua età, perché aveva vissuto poco con lei e la conosceva appena. Se l'era cavata egregiamente. Era riuscita ad affermarsi e a Los Angeles occupava un posto di spicco in un'azienda di prodotti di bellezza, di cui forse era addirittura socia. Emily aveva dovuto lavorare sodo per raggiungere quei risultati. Probabilmente si era imposta 1000 rinunce, come del resto PM, che aveva rinunciato per anni a una quantità di cose e che, se ce l'aveva fatta laurearsi in legge senza l'aiuto di nessuno, era stato sgobbando giorno e notte. E adesso Donald, tranquillo e beato, andava a trovare prima l'uno e poi l'altro. Mildred e i bambini mi aspettano dall'altra parte della frontiera e io conto su di te per attraversarla. Emily gli aveva dato tutti i soldi che aveva e forse, chissà, le era sembrata una cosa naturale. E forse le sarebbe sembrato altrettanto naturale nel caso in cui Donald avesse avuto la peste, ad esempio, o il colera, vederselo entrare in casa, buttarsi sul letto e dichiarare «Conto su di te per guarire e se ti contagio, pazienza». Era esattamente quello che stava succedendo. Forse anche peggio, perché Donald era peggio della peste. E da quando era arrivato, non più di qualche ora, aveva già attirato l'attenzione di due donne prontissime ad occuparsi di lui e a prendere le sue difese. Lil Noland. Che cosa aveva detto? Perché il suo amico ha l'aria così triste? O qualcosa del genere. E Nora, che si vantava tanto di rimanere sempre fredda e lucida in ogni occasione, saltava giù dal letto alle 9:30 del mattino per mettersi a preparare la colazione insieme allo sconosciuto. E quello che lei sospettava di chissà quale meschina gelosia nei confronti dell'amico era suo marito.